Linee d'ombra di Matteo Caccia. Lo sapevo anche prima che il rapporto, insomma, uomo animale è un rapporto esclusivo. Diciamo che mi è venuta l'invidia nei confronti di quelli che hanno gli animali, hanno questi rapporti così forti, così stretti, così veri. Quella sera Lucia ci accolse dicendo che la sua gatta aveva da poco dato alla luce 5 cuccioli, tutti molto belli, tranne uno, Calimero. Storie di nati per sbaglio e di ferrovieri improbabili in una puntata che si intitola Addomesticarsi. Il lupacchiotto aveva imparato la legge che gli impediva di avvicinarsi all'ingresso della tana. Aveva già imparato che vi erano delle limitazioni. Queste limitazioni erano diventate leggi. Obbedire alle leggi significava evitare il dolore e vivere felici. Ma vi erano altre forze che agivano sul lupacchiotto. La vita esigeva la luce. Lui penetrò in quella luce, immergendovisi. Questo è l'inizio di un film, di un cartone animato molto bello che si chiama Zanna Bianca e che racconta chiaramente la storia di uno dei cani più famosi della storia della letteratura. Il cane che diventa un lupo e il lupo che diventa un cane. Si intitola Addomesticarsi, la puntata di oggi di Linee d'Ombra, perché vi racconteremo un pochettino di storie che hanno a che fare con gli animali e con gli uomini e come sia gli animali sia gli uomini riescano ad addomesticarsi. Per l'occasione probabilmente il mio cane ha deciso di proprio oggi di venire qui sotto la mia scrivania. Sapete che noi siamo in onda da casa, no? Per evitare appunto di muoverci, per evitare al minimo gli spostamenti e i contatti. Linee d'Ombra è fatta ciascuno dalla propria casa, che io scrivo e Mauro Pescio anche, ciascuno a casa propria, e poi registro qui da casa mia, poi Anita Panizza fa le telefonate e mette insieme tutto, Luca Micheli sceglie le musiche e Paolo Corleone assembla il tutto in modo che voi abbiate le vostre storie quotidiane. Insomma, forse ha sentito il tema del giorno e Cane Ugo quindi è arrivato qua sotto la mia scrivania, anche perché in questi giorni a Milano c'è vento, lui è letteralmente terrorizzato dal vento e quindi immagino che si senta più al sicuro qua sotto. Spero che non faccia troppo casino e che quindi possiamo registrare in pace. Vi dicevo, racconteremo delle storie in questa puntata che hanno a che fare proprio con quello, con come prima gli animali e poi gli esseri umani. Ehi, Ugo, buono lì, buono, e possano appunto trovarsi qui. Trovarsi in situazioni in cui riescano ad essere meno selvatici di come sono di solito, e vale per entrambi, vale per gli animali ma vale anche e soprattutto per gli esseri umani. E quindi vi racconteremo storie di persone che non sopportano gli animali domestici e poi, come sempre succede, ne incontrano uno che ha qualcosa di particolare che li rende come dire improvvisamente amanti non degli animali ma di quella di animali. E poi vi racconteremo una storia che sembra arrivare dal Giappone, dagli Stati Uniti. Sapete come si chiamava Akiko, il film che raccontava di quel cane che aspettava il suo padrone tutti i giorni alla stazione anche se il suo padrone non c'era più e ha commosso il mondo. È una storia più piccola che arriva dall'Italia, che arriva dalla Toscana, da una piccola stazione della Toscana dove un cane a metà del secolo scorso si è talmente affezionato al luogo e al capostazione da diventare a tutti gli effetti una sorta di animale da stazione, una sorta di ferroviere, di capostazione, ecco, questo volevo dire. Questo è un programma che vi racconta ogni giorno delle storie che hanno a che fare con un confine. In questo caso il confine è quello appunto tra l'animale e l'uomo, tra l'essere razionale e l'essere istintivo, e devo dire che il tema, quello dell'addomesticamento, è un tema che è proprio molto comune a chi tutti i giorni frequenta gli animali, ma anche a chi tutti i giorni frequenta degli esseri umani abbastanza selvatici, diciamo così. Questa è Linea d'Ombra, questa è Radio 24, voi mettetevi comodi, benvenuti, cominciamo a raccontare. Nel Nella mia personale divisione degli uomini tra buoni e cattivi, io mi metto sicuramente tra i buoni. Però odio gli animali. Soprattutto gli animali domestici. Beh, a dire la verità non è che proprio li odi, solo che non li tollero molto. Non sopporto i gatti, non sopporto i cani che vengono lì e che mi leccano, che mi stanno attorno, saltellano, mi toccano, che abbaiano. Trovo del tutto inutili i coniglietti nani, i criceti, i furetti, le iguane e qualsiasi altra bestiola che le persone si mettano in casa. Pesci rossi compresi. Forte di queste mie convinzioni, mai avrei pensato di condividere il mio appartamento, che è al terzo piano di una tranquilla palazzina di paese, con un essere vivente non umano. Ovviamente, fino a quando il mio primo figlio, affinata per bene l'arte della retorica, non ha iniziato a tediarmi con frasi del tipo «Mamma, quando è che andiamo a prendere un gatto? Mamma, ci prendiamo un gatto? Dai mamma, quando?» Forse estremata, sicuramente per fare un grande regalo a mio figlio, capitolai. Non prima di avergli fatto promettere solennemente che della bestiola se ne sarebbe occupato lui in tutto e per tutto. E fu così che concessi a Cosmo di vivere con noi. Beh, Filippo aveva 5 anni ed era un appassionato di animali, tantissimo. Piacevano i cani, i gatti, e se il cane aveva capito anche lui che era insomma un po' difficile, con il gatto ha insistito tanto, e poi per amore di mamma ho detto ma sì, cosa vuoi che sia, un gatto. E così la gatta della nostra amica aveva appena avuto una cucciolata e quindi siamo andati a prendere Cosmo. Ma il giorno che sono andata ero molto emozionata anch'io, perché ero così contenta di fare contento lui, che nonostante la mia avversione, diciamo, sugli animali, insomma, è stata una bella cosa anche per me. Come era prevedibile, dopo le prime settimane di fervente entusiasmo per il caro cucciolo, sono venuti meno gli impegni assunti con tanto onore tempo prima, e così mi sono fatta carico io, mio malgrado, di provvedere a sfamare l'ospite, nonché di pulire la sua toilette privata. Nel frattempo Cosmo cresceva, e con lui la sua abilità a distruggere il divano. Tutti i miei mobili, con particolare predilezione per quelli di pino, che vabbè erano acquistati all'IKEA, ma montati con non poche imprecazioni. Di tiragraffi ovviamente nemmeno a parlarne. Inutile dire che la mia coabitazione con lui era forzata, un po' come se fossimo separati in casa, e che poco mi ci volle per pentirmi di aver assecondato il desiderio di mio figlio Filippo. Ancora più forti divennero le mie convinzioni nel non obbedire mai più a qualsivoglia richiesta che comprendesse la sola idea di avere un altro animale per casa. Ma quella sera andammo a cena da Lucia, una mia ex collega. I miei figli erano felici perché ne conoscevano le caratteristiche di autentica gattara. A casa sua c'erano sempre almeno 3 o 4 gatti che scorazzavano liberamente tra il salotto e il giardino. Quella sera Lucia ci accolse dicendo che la sua gatta aveva da poco dato alla luce 5 cuccioli tutti molto molto belli, tranne uno, Calimero. Calimero era un gattino molto più piccolo degli altri, con la testa grossa e gli occhi in fuori. Aveva gambe cortissime, con le quali deambulava a stento. Era spaurito, ma tenerissimo. Lucia ci raccontò che Calimero era affetto da idrocefalia e che la mamma lo aveva rifiutato dalla nascita. E il fatto che fosse lì era merito di Lucia stessa, che si era accanita contro l'infausto destino, prendendosene cura e nutrendolo invece della madre. Me ne innamorai all'istante. Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man going far, far away. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Meow. Now the man around the corner swore he'd kill the cat on sight. So he loaded up his shotgun with nails and dynamite. He waited and he waited for the cat to come around. 97 pieces of the man is all that they found. You know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. So he gave it to a man going up in a balloon. He told him for to take it to the man in the moon. The balloon came down about 90 miles away. Where the man is now, well, I dare not say. But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. So he gave it to a man going way out west. He told him for to take it to the one he loved the best. First the train hit the track, then it jumped a rail. Not a soul was left behind to tell the gruesome tale. But you know what? The cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Now the cat was the possessor of a family of his own, with seven little kittens, till there came a cyclone. It tore the houses all apart and tossed the cat around. The air was filled with kittens, but not one was ever found. La mia amica nel corso della cena ci rivelò essere preoccupata, perché da lì a qualche giorno sarebbe partita per le vacanze e non era sicuro che Calimero, che si alimentava solo con il biberon, sarebbe sopravvissuto. Io non ci pensai nemmeno un istante. Mi candidai come mamma affidataria del micino, proponendo che trascorresse le successive settimane lì da noi. E così accadde. Calimero arrivò in una calda serata d'agosto, incerto sulle zampe e completamente disorientato. Tra noi scattò subito qualcosa di chimico e, come in una sorta di imprinting tardivo, credo davvero mi abbia riconosciuto come una sua figura di riferimento. Mi era sempre addosso, mi cercava, mi seguiva, si appollaiava sul mio petto come se avesse trovato la più comoda delle poltrone. Dal canto mio ero tornata, di nuovo, mamma di un cucciolo. Non mi pesava dover pulire le micro cacchine che lasciava in giro o svegliarmi la notte per i suoi miagolii, allattarlo con un piccolo biberon 3-4 volte al giorno. Non vedevo l'ora di tornare dal lavoro per stare con lui. Mi preoccupavo quando l'altro gatto, Cosmo, lo prendeva di mira e manifestava apertamente il suo dissenso per la nuova e non richiesta presenza, tendendogli degli agguati o avventandosi su di lui. Ero quasi certa che, quando sarebbe tornata, avrei chiesto a Lucia di adottarlo e di poterlo tenere. Due occhi un po' fuori dalle orbite. Aveva le gambe cortissime proprio, un corpo che stava in una mano. Era, bruttissimo da un punto di vista, ma era di una tenerezza veramente impressionante. Era un cucciolo proprio bellissimo, bellissimo. Lo vedevi che, insomma, è sempre impaurito, intimidito anche da Cosmo, dall'altro gatto che avevamo. E poi questo bisogno di accudimento che notoriamente, insomma, i gatti non manifestano così, magari come i cani. Lui proprio, quando arrivavo a casa, mi aspettava, si metteva sul mio petto, e poi era estate, no? Avevamo le canottiere, quindi si metteva. Era proprio una cosa pazzesca, non me lo sarei mai aspettato da un animale. Ma in un frenetico sabato, nel quale coinvolsi l'intera famiglia in una sessione hard di pulizia della casa, con finestre spalancate, divani spostati e tutto sottosopra, ci rendemmo tutti conto che Calimero non c'era più. Non si trovava da nessuna parte. Avevamo cercato ovunque, sotto il divano, dietro la TV, in bagno, finché non decidemmo di buttare l'occhio là dove non avremmo mai voluto trovarlo. E Calimero c'era. Era tre piani sotto di noi, caduto da una piccola feritoia del balcone che di solito tenevo sempre protetta, ma che in quel giorno così frenetico avevo distrattamente lasciato libera da protezioni. Provai un dolore forte, come se un pugno immaginario mi avesse colpito al petto e mi avesse annientata, come quando è mancata mia nonna, come quando se n'è andato Alberto, un mio caro amico, e così gli altri membri della mia famiglia. Il dolore, dopo qualche tempo, come giusto che sia, se n'è andato, ma non se n'è andata quella sensazione di autentico amore e tenerezza che per la prima volta ho provato verso un animale e che tanto invidio ai proprietari di cani e gatti. È come se Calimero avesse aperto una porticina nel mio cuore che fino ad allora era rimasta ostinatamente chiusa. Ma anche se sono dalla parte dei buoni, quella è rimasta solo una parentesi. Fortunatamente, oserei dire, mi è stata riscontrata un'allergia alla forfora di gatto e di cane, a causa della quale mi sono liberata anche di Cosmo, che è stato affidato a Divano, un nostro amico, anche lui gattaro. Di Calimero mi rimane un dolce ricordo e un chissà sul come sarebbe proseguita la nostra amorevole convivenza. Si intitola Addomesticarsi la puntata di oggi. La puntata di oggi ha a che fare con quel pezzo selvaggio che c'è negli animali, che in qualche modo negli anni oppure con una forma di educazione si addomesticano, ma anche devo dire che la storia di Francesca lo dice molto bene, riguarda anche quel lato degli umani che in qualche caso sono un po' selvatici e poi magari arriva un gattino che sta male, minuscolo, che si salva per il rotto della cuffia e in qualche modo ci addomestica. Pronto, ciao Francesca, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Sto bene, grazie. Tu cosa fai in questo periodo così complesso? Com'è la tua vita? Cosa stai facendo? Com'è cambiata, Francesca? Allora, io sto ancora lavorando perché lavoro in un comune proprio presso l'ufficio servizi sociali, quindi stiamo proprio gestendo in pieno, insomma, questa emergenza. Cioè, è cambiata in meglio perché siamo entrati in contatto anche con delle persone che non conoscevamo. Ah, beh, questa mi sembra una buona notizia, il fatto che ci sia, diciamo, qualche risvolto positivo. Poi in Veneto, non so, nella provincia di Verona, però in Veneto, insomma, sono stati bravi, sono riusciti in qualche modo a circoscriverla quasi sin da subito. Questa emergenza, sì, quantomeno identificarla, capire che cosa fare, se, insomma, questo è quello che si racconta al momento, quindi mi sembra tutto sommato un luogo fortunato. Quindi tu, Francesca, vai al lavoro oppure riesci a fare da casa? No, vado al lavoro rispondo al telefono perché abbiamo attivato un servizio di consegna spesa a domicilio, consegna di buoni spesa per le persone un po' più in difficoltà, quindi sono pienamente operativa, diciamo. Veniamo alla storia, veniamo a Calimero invece. Tu come lo ricordi? Come te lo ricordi sto gattino adesso? A distanza di quanti anni? Di quanto tempo? Credo fosse 3-4 anni, adesso bene non mi ricordo. Cioè, te lo ricordi come, diciamo, come ce lo racconti? Come un esserino che aveva... Io me lo ricordo, sì, me lo ricordo proprio indifeso. Il primo ricordo che ho è proprio quello, che fosse proprio un essere indifeso. Sparuto, però bellissimo nello stesso tempo, perché era piccolino, con questi occhi un po' in fuori, sono molto tenero. Senti, come l'aveva vissuta la tua famiglia questa cosa, visto che tu, insomma, sei abbastanza dichiaratamente contro gli animali in casa, giusto? Sì. Allora no, allora erano molto contenti i miei bambini, cioè che allora erano ancora proprio bambini, erano felicissimi di questo gattino, ma poi era diventato anche, diciamo, l'attrattiva anche delle nostre amiche, capito, delle bambine, amiche dei miei figli che venivano a coccolare questo gattino, era diventato proprio un'occasione di incontro ancora più, diciamo, più frequente, proprio perché era molto molto bello. E alla fine quanto era rimasto con voi? Un 15 giorni penso, perché poi insomma è successo il fatto, sì proprio poco, giusto il periodo delle vacanze della mia collega. Quindi è stato proprio davvero un lampo, cioè è stato un periodo, sì, certo, brevissimissimo. Senti, tu lo dici apertamente, perché io ho molto apprezzato il fatto che tu dicessi: oh, sono una brava persona, ma non mi piacciono gli animali, che è una cosa che è difficile da dire adesso. Cioè, effettivamente c'è una forma di retorica sugli animali domestici, sugli animali in generale. Lo dice uno che ha un cane, quindi non metto le mani avanti. Però mi rendo conto che le persone che non amano gli animali sono viste in maniera un po' strana, no? Per cui, normalmente, quando io entro in un bar e ho il cane e non conosco quello del bar... quando i bar erano aperti, no? Ti ricordi? Quell'epoca in cui i bar erano aperti e dicevo: lui può entrare? Moltissimi mi rispondevano allo stesso modo. Mi dicevano: sì, i cani possono entrare, sono gli umani che meglio di no. Che è una retorica al contrario contro gli esseri umani. Quindi mi rendo conto che le persone che apertamente dicono: oh, ragazzi, non mi piacciono i cani e non mi piacciono i gatti e non mi piacciono gli animali in generale, sono viste un po' in malo modo. Tu ti capita di verificarla questa cosa? Ma un po' sì, perché anch'io sono circondata da tante persone che amano, insomma, che amano gli animali. Però io provo anche invidia proprio nei confronti di queste persone, perché cioè, l'autentica, diciamo, relazione uomo-animale mi piacerebbe anche sperimentarlo, l'ho anche sperimentata nel mio piccolo, quindi un po', diciamo, gli invidio, è che io proprio non ce la faccio. Non ce la fa. Chiarissimo, chiarissimo. Francesca, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Ti faccio in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Mother, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Mother, my love, don't forget me. Mother, my dear. Questa canzone dei Beatles, Martha My Dear, è una canzone che Paul McCartney ha dedicato direttamente alla sua cagnolina, che probabilmente era un'amorevole cagnolina tanto quanto Calimero. Ci ha raccontato Francesca molto chiaramente come per lei Calimero fosse una cosa diversa dagli altri animali, per quanto lei rimanga orgogliosamente anti-animali in casa, ecco, diciamo così. Però di fatto, grazie a quel gattino, lei in qualche modo si è addomesticata. E addomesticarsi è il titolo di questa puntata. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia di addomesticamento, devo dire, molto sorprendente. Linee d'ombra. Nell'estate di ormai 3 o 4 anni fa, un giorno mi trovavo in una stazione che sembrava abbandonata nel cuore della Toscana. Poi in realtà non era nemmeno così abbandonata, perché è la stazione di riferimento per chi va, deve andare a Piombino e per chi quindi deve andare all'Isola d'Elba, ed è Campiglia Marittima. Campiglia Marittima però, per come è stata costruita abbastanza di recente come stazione, sembra potrebbe essere nel Wisconsin, cioè potrebbe essere in una zona sperduta degli Stati Uniti. Era agosto ed era tutto bruciato intorno, c'erano grilli e cicale che cantavano come dei dannati. Io aspettavo questo treno per andare a Grosseto all'epoca, e gironzolando per la stazione non c'erano tanti treni. Io ero in anticipo di tipo un paio d'ore, mi mangio un ghiacciolo, insomma cerco di un po' di frescura sotto le piante, e trovo questo giardinetto che c'è, sapete i giardinetti che ci sono nelle stazioncine di paese, vedo una statua. È una piccola statua che è dedicata a un cane, cioè è la statua di un piccolo cane che si chiama Lampo. È lì tuttora, se passate dalle parti della stazione di Campiglia Marittima la trovate. Ebbene, la puntata di oggi si intitola Addomesticarsi, e dopo la storia di Calimero, che appunto addomestica la sua padrona, ora una nuova storia. Il suo protagonista non è un gatto, ma è un cane che anni fa è diventato capo di una stazione ferroviaria della Toscana. Ed è la storia del cane Lampo. State con noi. La vicenda di Lampo pare quasi una favola d'altri tempi, ed in effetti di anni ne sono trascorsi più di 60 da quell'assolato giorno d'agosto del 1953, quando un piccolo bastardino pezzato, senza famiglia né dimora, discese alla chetichella da un vagone merci di un treno di passaggio alla stazione di Campiglia Marittima. Comparve come un lampo in quel piccolo impianto, e come un lampo portò un repentino cambiamento nella vita dei pochi ferrovieri di quella stazione, in particolare del capostazione, Elvio Barlettani, la cui figlia, Virna, innamoratasi subito di quel piccolo cane, pregò suo padre affinché chiudesse un occhio e lo tenesse lì, nel loro alloggio, sopra la stazione, almeno per quella prima notte. «Per non più di una notte», rispose Barlettani, seppur senza troppa convinzione. Il piccolo cagnolino al mattino dopo era ancora lì, arrotolato davanti alla porta del suo ufficio, in attesa di una carezza. E non appena Elvio aprì la porta, gli balzò addosso, leccandolo e scodinzolando. Il capostazione da quel giorno non se la sentì più di mantenere quel suo iniziale proposito di scacciarlo, e per mandarlo poi dove, chissà. Da allora, per tutto l'arco della giornata, Lampo, come l'aveva battezzato per l'improvviso ingresso nella sua vita e in quella dei suoi colleghi di Campiglia, divenne un compagno fedele di quel padrone di elezione, seguendolo in ogni mansione che avesse dovuto compiere nell'ambito del suo servizio di ferroviere. E così quell'omone robusto e quel suo piccolo cane divennero da quel giorno amici inseparabili, anche se ogni tanto, desiderando vedere il mondo, Lampo spariva per qualche giorno, salendo su un accelerato di passaggio, ma ritornando sempre alla sua stazione, dal suo amico capostazione, che era sempre lì ad aspettarlo. Sì, perché Lampo, vivendo in mezzo ai treni, aveva imparato a conoscerne gli orari, sapendo anche distinguere i vari tipi di carrozze, soprattutto quelle ristorante, delle quali divenne assiduo frequentatore, percorrendole su e giù lungo il marciapiede ogni qualvolta si fermavano e in attesa di qualche omaggio da parte dei viaggiatori. I ferrovieri ormai lo conoscevano, e anche il personale viaggiante chiudeva un occhio nel vedere quel piccolo cane pezzato che non faceva male a nessuno, accoccolato durante i suoi frequenti viaggi nel vestibolo di una vettura. Incredibilmente Lampo conosceva a memoria orari e tipologie dei treni, coincidenze e fermate, e il motivo era semplice. Lampo aveva fatto pratica accompagnando tutti i giorni a scuola la piccola Virna, la figlia di Elvio. In quei primi anni, infatti, saliva anche lui sul treno che da Campiglia andava verso Piombino per scortarla alla locale scuola elementare. E poi Lampo tornava a Campiglia, racconta ancora oggi Virna. Sempre col treno, e andava in ufficio da mio padre. A fine mattinata riprendeva di nuovo il treno per venire a riprendermi all'uscita da scuola e riaccompagnarmi a casa. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fail, my dog will always come through. Na na na na na na na na. As much as I love you, though you may fade, my dog will always come through. Non sempre però il fatto che Lampo passasse da un treno all'altro veniva apprezzato. La direzione del compartimento ferroviario di Firenze, infatti, un giorno impose al capostazione Barlettani di separarsi dal suo amato cagnolino, allontanandolo definitivamente dalla stazione. A malincuore, il ferroviere prese la dolorosa decisione di affidarlo ad un amico calabrese, suo conoscente. Ma incredibilmente, racconta ancora oggi la figlia del capostazione, un mese più tardi lo vedemmo ritornare. Era magro, aveva perso anche il pelo, ma da solo era tornato a casa. Di fronte a questo avvenimento, anche le ferrovie dello Stato cedettero e Lampo divenne una mascotte stabile della nostra stazione di Campiglia Marittima. La fame di quel piccolo cane valicò i confini della piccola stazione, fino al punto che la stessa Rai arrivò con una troupe televisiva a Campiglia per girare su di lui un breve servizio, ritraendolo davanti alla vettura ristorante del Torino-Roma. Un settimanale americano giunse perfino a dedicargli la sua copertina. Fu così che arrivò per lui, per via aerea, da Buffalo, Stati Uniti, una grossa scatola di biscotti da un suo ignoto ammiratore d'oltreoceano. Ma il destino aveva tuttavia stabilito che questa bella favola dovesse un giorno avere fine. Durante una manovra nella stazione, Lampo, nell'attraversare i binari per raggiungere l'ufficio del suo amico, venne investito da un treno. Era la calda sera del 22 luglio del 1961, una sera simile a quella che aveva visto discendere 8 anni prima, da un merci, un cucciolo pezzato senza nome. Il capo manovra di Campiglia, con le lacrime al volto, comunicò a Barlettani che Lampo non c'era più. Lo seppellirono ai piedi di un acacia della sua stazioncina, in un giardinetto tranquillo. Proprio là, dove era solito attendere il suo padrone durante le lunghe ore del pomeriggio. Ciò che forse uccise Lampo fu la sua tanta voglia di viaggiare, di scoprire quel mondo grande, di quegli uomini che tanto amava e nel quale si era talmente immedesimato da dimenticare le sue origini di modesto bastardino senza casa. A Campiglia, a parlare di lui, ora che anche il suo grande amico se n'è andato per sempre, non resta che un piccolo monumento che lo ritrae, con la zampetta sollevata, come era solito fare per salutare il suo padrone. Ciao Lampo, forse un giorno ci ritroveremo. Io e il mio cane addormentati da un nascondiglio rasserenati, nessuna attesa, nessuna impresa, così. Io e il mio cane, lo stesso passo, in fondo a un fosso, cercare il mare, poi camminare, si può toccare. Scende in strada, corre e vola, è il suo modo di ridere, di cantare a squarciagola, e non c'è giorno che non sia così. E la storia del cane lampo, come vi dicevo, io l'ho vista con i miei occhi, perché appunto a Campiglia c'è ancora, l'ho vista qualche anno fa, questa piccola statua che ritrae il cane lampo, evidentemente proprio nel punto in cui è stato tumulato il suo corpo. Ma la storia l'abbiamo trovata così nei dettagli, così precisa, su un sito che si chiama Clamfer, che è il club degli amici della ferrovia. Esiste questo sito in cui le persone che probabilmente o sono state ferroviere o sono tutt'oggi ferrovieri, o che comunque hanno un amore per i treni e per le stazioni, raccontano e scrivono cose. Se avete quella passione, visitatelo. Questa storia in particolare l'aveva scritta Maurizio Panconesi, e lo ringraziamo per averla scritta così, così nel dettaglio. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare i diari dalla quarantena che ci arrivano direttamente dalle vostre case. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Linee d'ombra. Come stiamo passando le nostre giornate, cosa stiamo facendo, come riempiamo il tempo, ma soprattutto come lavoriamo da casa in questi giorni di emergenza da coronavirus. Ci sono molti modi in cui lo facciamo, per cui ci sono persone che lavorano da sole e quindi proseguono il loro lavoro in maniera solitaria, ci sono altre che invece escono e vanno al lavoro magari con molte più precauzioni di prima, ma continuano a farlo. E poi ci sono ormai gli Zoom dipendenti. Zoom, lo sappiamo tutti, è una app che tra l'altro in maniera anche molto controversa, perché pare che in qualche modo registri tutto quello che si dice, quindi il tema della privacy, perdonatemi, continua a essere in prima linea. Insomma, Zoom è diventato praticamente il metodo di lavoro per tutti quelli che erano abituati a fare riunioni su riunioni su riunioni su riunioni. Tra l'altro, una cosa che ci porteremo a casa, che probabilmente è che le riunioni, lo abbiamo capito adesso, servono abbastanza poco, diciamo così. Questa è la storia di una riunione su Zoom. Si chiama Anna, la protagonista di questa storia, vive a Castelfranco Emilia, che è proprio tra Modena e Bologna, e a un certo punto della sua vita si è trovata proprio in questo periodo a dover avere a che fare con la tecnologia. Lei lo dice, non è una grande esperta di tecnologia, però c'è un figlio di 20 anni che può darle una mano. Ebbene, la riunione su Zoom è andata così. È successo che il venerdì pomeriggio è arrivato un messaggio sulla chat del lavoro in cui il capo chiedeva un video incontro per il giorno dopo. Ok, allora ci vediamo domani alle 15 su Zoom, diceva. Panico. Ok, ho risposto, magari potremmo fare una prova giusto per vedere se funziona tutto? Beh, vediamo se riusciamo a farla domattina, mi risponde lui. Io non è che sia proprio un asso con la tecnologia. Lo sono per la carta stampata, per le telefonate chilometriche, per le due chiacchiere con i vicini di casa. Ma non mi perdo d'animo. C'è ancora molto tempo prima del video incontro. Blocco un mio figlio 22enne che sta bighellonando in salotto e gli chiedo informazioni. Ma sì, dai, mi dice, devi scaricare l'applicazione, no? Dammi qua il telefono, ti faccio vedere. Inizia a sciappinare con il telefono e poi mi dice, ecco, adesso ho scaricato Zoom, poi così e fai così. Sembrava tutto chiaro, però una prova si poteva comunque fare, penso io. Con la manualità che mi ritrovo ero certa che ci sarebbe stato qualche problema. Vabbè, speriamo bene. Allora, stabilita, sono pronta con il telefono in mano, aspettando un segnale. Dovrà pure comparire qualcosa, no? Un beep, uno squillo. Niente. Io sono già nel panico. Passa qualche minuto e ancora niente. Poi, per caso, vedo il messaggio di una collega che mi dice «Ma si può sapere dove sei? Ti stiamo aspettando». «Aspettando dove?» dico io. Di nuovo panico, cuore a mille. Inizio a guardare sulla chat per capire se mi sono persa qualche messaggio. Niente. L'avevo detto io che dovevamo fare una prova. Non so perché comincio a premere sull'icona di Zoom e misteriosamente compare una schermata. E adesso mi chiedo. Premo a ripetizione su tutte le icone che vedo e improvvisamente compare la faccia del mio capo. Oh, ce l'ho fatta. Non ci credevo nemmeno io. Poi mio figlio dice che non ci capisco niente, penso. Ci sono riuscita subito e non ho avuto nemmeno bisogno di lui. Peccato però che questo pensiero svanisca subito quando capisco che non ci sentiamo, o meglio che io non riesco a sentire loro. Christian! Inizio a chiamare a squarciagola mio figlio, che ovviamente non risponde. Intanto anche il mio cane si sveglia dal torpore e, vista l'agitazione generale che aleggia nella stanza, comincia a seguirmi agitato anche lui. Christian! Chiamo di nuovo, più forte di prima. Christian, dove sei che la mamma ha bisogno? Da dietro l'angolo della casa arriva mio figlio, sciabattando e anche un po' innervosito perché era al telefono con un amico. Iniziamo una piccola discussione sul perché sto urlando, poi finalmente riesco a spiegargli il problema. Nel frattempo però mi ero completamente dimenticata di avere il telefono in mano, sul quale comparivano le facce dei miei colleghi. Mio figlio mi toglie il telefono dalla mano e insieme guardiamo il display. Lui si accorge immediatamente di quello che sta succedendo, mentre io continuo imperterrita a esporre le mie teorie di madre incompresa e mai aiutata nel momento del bisogno. Ad un certo punto mio figlio si gira e mi dice con tutta la condiscendenza di cui è capace: «Mamma, se tu non senti loro, non è detto che loro non sentano te». Finito il video incontro, ho mandato un messaggio ad una collega per sapere se effettivamente avevano sentito tutto. Sì, mi ha risposto, senza commentare. Telefona tra 20 anni. Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano. Mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che è appena nato, si avvicina e scende giù. Io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato. L'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra 20 anni ripensami, vestito da torero, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano. Lontano, ma ecco che si avvicina. Un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo, l'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa, imparando. E chiudiamo anche la puntata di oggi con la terza puntata, il terzo episodio della nostra storia seriale nuova, quella che è cominciata questa settimana e che ci racconta di Irene e di suo marito Francesco e anche di loro figlio Giovanni, che sono state vittime di questa epidemia, sono state colpite dal virus e hanno avuto, ahimè, un andamento rocambolesco della malattia e della degenza. Lei è stata molto gentile, Mauro Pesce l'ha contattata, l'abbiamo praticamente, è stato un lavoro istantaneo, è tutto accaduto settimana scorsa e la storia abbiamo cominciato a raccontarvela lunedì. Siamo al punto in cui la febbre sta continuando a salire e lei non sa che cosa fare. Io passavo le giornate al telefono, anche a chiamare tutti i numeri che davano, tutti per avere, per, almeno che venissero a fare il tampone, per capire se era quello, di andare in ospedale. Ho cominciato a chiamare il 118 e l'unica domanda, e lì ho sicuramente sbagliato io perché dovevo dire una bugia e non l'ho detta, perché l'unica domanda che ti facevano era se hai difficoltà respiratorie, perché a quel punto però col senno di poi vuol dire che hai già la polmonite a un certo livello. Se non sei ancora a quel livello non ti vengono a prendere, non ti portavano all'ospedale. State a casa, vediamo come va. Sono stati giorni molto complicati. Io non sapevo che cosa fare. Ero preoccupata per Francesco, ero preoccupata per Giovanni, nostro figlio, che stava da mia sorella. Sapevo che anche lui era preoccupato per noi e mi dispiaceva, ed ero preoccupata per il bambino che portavo in grembo, perché io, vi ricordo, sono incinta. Sentivo che mi stavo ammalando anche io e avevo davanti a me Francesco che mi indicava cosa mi sarebbe successo di lì a qualche giorno. Ho passato le giornate a chiamare il medico di base, l'ASL, il 118, ma non ottenevo grandi rassicurazioni. Anche i medici stessi e il personale non sapevano cosa fare, non sapevano come comportarsi. Non facevano che ripetermi che probabilmente avevamo contratto il Covid-19, ma dovevamo restare a casa. Tutti mi facevano la domanda se avesse difficoltà respiratorie e a me non sembrava, dunque dicevo di no. Probabilmente se avessimo detto di sì, sarebbero venuti a prenderlo prima e saremmo arrivati prima in ospedale. Dopo due giorni in cui mi sentivo ripetere di stare assolutamente a casa e vedere come procedeva, un giorno in cui io stavo male e Francesco molto male, ho perso il controllo. Ho chiamato il 118 e ho detto che se non fossero venuti avrei messo mio marito in macchina e l'avrei portato al pronto soccorso. L'addetto del 118 mi ha risposto che avevo un atteggiamento irresponsabile. Lei ha ragione, gli ho risposto io, ma sono estenuata, spaventata e incinta al settimo mese. Cosa devo fare? Sto a casa ad aspettare che cosa? Ma anche così non ho ottenuto nulla. Dopo 12 giorni a quel punto lui andava sempre peggio, quindi tramite un amico medico che conosceva qualcuno del 118 ce l'ha fatto venire a prendere Francesco, che è andato all'ospedale, e da lì diciamo la situazione dell'assistenza è completamente cambiata. Francesco ha iniziato ad avere la febbre il 6 marzo ed è stato ricoverato 12 giorni dopo, il 17 marzo, in piena emergenza. Quando è uscito di casa e l'ambulanza si è allontanata, ho rischiato di crollare. È una storia drammatica quella che ci sta raccontando Irene, è una storia che racconta probabilmente la storia di moltissime persone che si sono trovate in questa condizione. C'è un grande punto interrogativo che riguarda l'emergenza Covid ed è che cosa è successo nelle case dei malati, che cosa è accaduto nelle case delle persone che si sono ammalate e che, come tutti, ricevevano le stesse risposte dalle persone che contattavano, che erano se non avete problemi a respirare state a casa e passerà, in sostanza. Purtroppo non a tutti è andata così bene, purtroppo non tutti hanno avuto un amico medico che gli hanno permesso di raggiungere un ospedale, e Irene ci racconterà nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, come è andata a finire. La ringrazio ancora, ringrazio Mauro Pescio, Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli che ci permettono di fare Linee d'Ombra ogni giorno. Noi siamo qui dalle 15 alle 16 per raccontarvi un po' di storie, perché rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!